con Valerio Malorni. Intanto ben ritrovato, caro. Grazie mille, ben ritrovato a te, a voi. Sai che sono molto contento oggi di questo appuntamento che inseguivo da tempo. Sì, ci siamo sottratti in qualche modo con Simone Amendola, di cui siamo assieme nella compagnia, questo lavoro della compagnia Amendola Malorni, proprio nel diluvio, poiché avevamo in qualche modo anche timore, no? di una visione on air senza rapporto, cioè che anche il lavoro si costruisce un po' in un rapporto col pubblico, non nel senso di una partecipazione, ma in una costruzione di immagini, di immaginario che pian piano si va a togliere per arrivare a vedere che c'è un uomo dietro il diluvio. In qualche modo si parte da un diluvio e si crea un rapporto. Proprio a questo, che abbiamo vinto un premio, premio in box con questo spettacolo, e all'inizio ci siamo arrivati in maniera, diciamo, particolare, perché all'inizio in realtà eravamo stati scartati proprio perché il video in qualche modo era manchevole, no? Sotto un profilo, apposta, il profilo del rapporto a teatro, nel senso più bello del termine, nel senso di sguardi, nel senso di conquiste, man mano che uno, no, racconta, riesce a creare un incontro, una serata. Quindi niente, eccoci qui, anche noi contenti. Come hai vissuto lo spettacolo? Raccontacelo dal tuo punto di vista. Dal mio punto di vista, ma il punto di vista intanto è stato un punto di vista, diciamo, comune con Simone, nel senso che ci siamo incontrati con questo spettacolo, nel senso che la nostra è un'amicizia di anni, di stima a livello lavorativo, e poi su un pensiero, su un'urgenza, in qualche modo abbiamo detto facciamola assieme questa cosa, perché l'urgenza da cui nasce lo spettacolo era comune, di una difficoltà, diciamo, di orizzonti, di nervi tesi, no? In questa società in cui è difficile costruire, in cui sono sempre singoli eventi. E in questo senso, da dentro, poi me la sono vissuta nell'equilibrio che abbiamo creato tra realtà e finzione, nel raccontare un'autobiografia che fosse la mia, ma anche quella di due. La biografia, diciamo, di due persone che vorrebbero partire, e con uno spettacolo poi riescono a partire in qualche modo. Ora, quindi, da dentro è stata certamente una cosa bella, diciamo, riuscire ad arrivare ad un monologo che fosse da una parte pazzo, come sono, no, tutti i monologhi in cui c'è qualcuno e parla da solo, ma dall'altra parte bello, perché non si pretende nemmeno una partecipazione, ecco, sensoriale, diciamo, a prescindere, ma si è arrivato a un rapporto costruendolo piano piano. Senti, Valerio, come poi è cresciuto, dove lo avete, rispetto ai luoghi in cui lo avete portato, al tempo che è passato? Guarda, rispetto a questo è stato molto bello, perché il tema dello spettacolo, ora non voglio aprire se lo andiamo a ascoltare, ma insomma si parla di emigrazione, una storia sostanzialmente emigrazione, ma vissuta sotto una soggettiva personale. È stato bello perché il paese è molto lungo, e quindi da dove andavamo le reazioni erano differenti, perché il desiderio, la necessità, l'urgenza, la disperazione di emigrare, di spostarsi, di riuscire a trovare luoghi in cui poter trovare un terreno fertile per costruire, erano di volta in volta differenti. Nel sud, sì, anche negli incontri dopo lo spettacolo c'era sempre qualcuno che aveva, no, un fratello o lui stesso era emigrato e poi era tornato. Al nord magari meno, perché, no, la ricchezza era maggiore, ma di certo si sentiva un nervo teso, perché poi il paese sempre quello è, anche se lungo. Simone scherzava che quando siamo andati in Veneto con la sua macchina un po' ammaccata potesse sembrare un drogato, perché lì, no, è tutto in qualche modo più tondo rispetto a giù, che è tutto spezzato, ma insomma la difficoltà del paese si sta vedendo anche dopo, insomma, 3 anni che abbiamo scritto lo spettacolo. In realtà alcune cose sono emerse laddove nello spettacolo erano ancora intuizioni, e ora invece sono quasi istituzionalizzate, ecco. Che mentre, insomma, si stava guardando all'immigrazione, in realtà le seconde generazioni erano già qui e noi eravamo già lì. Sì. Quindi da questa cosa qua, proprio da questa tua domanda, in realtà è stata la nostra. Infatti stiamo costruendo pian piano da tutti questi incontri, in ogni piazza, no? In cui, diciamo, girando vai in una piazza, ci sta il teatro, ci sta la città fuori, i tecnici, ogni volta è un mondo, no? Quindi ogni paese dell'Italia, e da qua stiamo costruendo pian piano un documentario per raccontare il paese, diciamo, a partire da quest'ottica, ecco. L'ottica di un uomo, dall'ottica del... Dimmi. Ecco, proprio anche a questo proposito, Simone viene dal mondo del cinema e del documentario, tu dal teatro, com'è stato lavorare insieme? Beh, è stato magnifico. Innanzitutto perché c'era un valore umano, perché uno, insomma, era assieme non per un'utilità ma per una storia, e dopodiché la differenza è sempre generosa. Poi entrambi in qualche modo eravamo attirati dal corpo a corpo con le cose, con l'uomo, io anche, diciamo, tutto quello che è il teatro dall'infanzia, al teatro sociale, tutto quello che sono i percorsi di un teatro che va fuori dal palco e incontra direttamente quelle persone, cerca di costruire anche, no, piccole cose di una sera, e lui altrettanto coi documentari, partendo dalla realtà, costruire delle storie che la trascendessero, la magnificassero, la indagassero. Quindi in questo senso è stato probante. Questo aggettivo non è una parolaccia. Valerio, io sono contento di averti sentito, un abbraccio. A presto, un saluto.